Tempo fa, all'ennesimo convegno, attendevo con impazienza una relazione dal titolo accattivante. Quando venne il suo turno, il relatore fu invitato al palco, il brusio in sala si placò e lui, tacendo, cominciò a guardare allo schermo alle sue spalle. Qualcosa non andava per il verso giusto, armeggiò per un po' davanti a sé e poi cominciò a gettare occhiate disperate oltre il pubblico, ai vari angoli della sala. Si accesero e si spensero luci, ma senza alcun risultato. Dopo un paio di minuti accorsero due tecnici che presero a confabulare con il relatore, a darsi da fare armeggiando di qua e di là. Noi del pubblico attendevamo in silenzio, ma qualcuno tossicchiava, qualcun altro decise che quello era il momento propizio per andare a fare la pipì. Ci vollero una decina di minuti buoni perché i tecnici lasciassero il palco e le giuste luci ricollocassero uomini e cose secondo i ruoli prestabiliti. Il relatore orientò il proprio corpo verso il pubblico, si schiarì la voce e tornò a girarsi verso lo schermo illuminato. Fu in quel momento che apparve la scritta «Buongiorno a tutti». Io compresi che mi avevano fregato, che avevo perso il mio tempo e che quell'imbecille non aveva niente da dire. L'altro giorno il ruolo del relatore ad un convegno toccava a me. Eh sì. E poco prima di venire chiamato al palco sono stato avvicinato da un compito signore che mi ha chiesto di consegnargli i miei lucidi. Gli ho detto che non ne avevo. E lui allora si è prontamente riilluminato e mi ha detto che aveva capito che io ovviamente mi sarei servito del mio computer. E io gli dissi che la cosa non mi era passata neppure per l'anticamera del cervello. E lui, rabbuiandosi, parve molto deluso e mi disse se davvero per la mia relazione non mi ero portato dietro niente. Guardi, gli dissi, dovrei essermi portato dietro alcuni concetti. Se invece me li fossi dimenticati, le garantisco che prima di andarmene chiederò scusa al pubblico e agli organizzatori del convegno. Va bene così? Venne il mio turno e lo lasciai alle sue perplessità. Dopo di me doveva parlare uno psicologo, categoria umana verso le cui disgrazie, devo dire la verità, ho un debole particolare. Lui almeno ai saluti ci è arrivato da solo. Ma al momento di impostare il discorso ha fatto una pausa, ha cambiato faccia e rivolto ad un punto oscuro della sala ha detto «Lucido numero uno, per favore». Deve essersene pentito perché nell'attimo successivo, al lato estremo del palco, c'è stato come un lampo, un breve crepitio e poi dalle ceneri del tecnologico colà installato, come in una meno tragica Madama Butterfly, ha preso a salire un tenue ma ben percepibile fil di fumo. Addio lucidi, psicologo in balia di se stesso, impappinamenti, ripetizioni, emozioni degli affetti, pubblico che non vedeva l'ora che finisse. Diffidate di chi ricorre ai lucidi e diffidate delle argomentazioni con le quali li difende strenuamente. Sotto sotto c'è l'attribuzione di taumaturgicità al visivo, come se questo di per sé potesse guarire la parola dai suoi mali. Certo, ci sono cose che è bene mostrare, per esempio un grafico, ma un grafico ha significato all'interno di un'argomentazione. Prima viene l'argomentazione, poi viene il grafico. Se il grafico invece prevale sulla parola, per lo più significa che la parola è debole. Debole giusto quel tanto che piace oggi incentivare, perché nessuna parola abbia più la forza di liberarci dalle catene ideologiche che ci hanno imposto.